Benvenuti a Dedicato anche questo mercoledì insieme in studio per parlare di una cosa molto bella, devo dire, perché oggi ci concentriamo, facciamo una puntata speciale sull'Istituto Comprensivo 5, quartiere Navile, zona Bolognina. Quindi di cosa parliamo? Parliamo delle scuole della Bolognina, che poi effettivamente, se vogliamo essere precisi, la Bolognina comprende anche scuole dell'Istituto Comprensivo 15 e non solo del 5. In questo caso andiamo a parlare del 5 perché si stanno smuovendo un po' di cose, stanno succedendo varie situazioni intorno alle scuole dell'Istituto Comprensivo 5, e a noi va di parlarne un po' perché siamo coinvolti in prima persona. Tanti dei nostri giovani dello staff di Dedicato frequentano le scuole dell'Istituto Comprensivo 5 e quindi, insomma, ci va di addentrarci un pochettino in questa situazione. Poi, insomma, onestamente, devo dire come stanno le cose. Io faccio parte del comitato genitori, mi spendo in prima persona per i progetti e per i percorsi che questo istituto fa, perché credo tantissimo nel valore della scuola pubblica, ma vedo che intorno a me non sono l'unica a crederci, e soprattutto praticamente quotidianamente molte famiglie, genitori e i docenti di questa scuola, nonché la dirigente e il consiglio d'istituto, stanno sul pezzo, ma veramente sono proprio coinvolti al 100% nei percorsi che succedono ai nostri ragazzi e ai nostri bambini in quartiere. Quindi non potevo esimermi da fare una puntata proprio su questo argomento specifico, perché l'11 di aprile c'è stata la festa di primavera al Fondo Comini ed è stata una festa pazzesca. Io ho visto tantissime feste della scuola. Questa è stata una festa veramente partecipata, c'erano tantissime persone, anche non della nostra scuola ma del quartiere, che si sono avvicinate a noi. Ci sono state tantissime attività, associazioni del territorio e non, che ci hanno accompagnato durante questa festa e che ci hanno messo del loro, quindi come non parlarne? Impossibile, impossibile non parlarne. Allora, la festa di primavera devo dire che è andata super bene, perché oltre alla partecipazione che abbiamo visto, abbiamo anche visto un sacco di bambini e ragazzi che hanno fatto delle attività. Le attività proposte sono state tantissime, perché veramente abbiamo avuto le biblioteche che sono venute a fare letture per i più piccoli, ma che hanno portato anche dei prestiti di libri da fare direttamente alla festa. Abbiamo avuto il circo sottosopra con noi, abbiamo avuto la biodanza, abbiamo avuto il rugby, il calcio, abbiamo avuto tutti i mercatini delle classi dei ragazzi che sono stati insieme tutta la giornata e hanno creato insieme anche dei piccoli oggetti da vendere al mercatino, i professori, i collaboratori scolastici, c'erano veramente tutti a questa festa. E c'era anche Dedicato, perché abbiamo fatto un laboratorio radio, c'erano il banchetto del comitato genitori, c'erano i patti digitali, è stata fatta una pesca meravigliosa, è stato fatto il pranzo condiviso, questo ci tengo a dirlo perché sono tutte cose che ha organizzato il comitato genitori con tanta fatica e tanto tempo, quindi insomma ringraziamo questo comitato genitori per la presenza che c'è quotidianamente sul nostro territorio. Ma tornando a noi, Dedicato ha fatto uno dei suoi laboratori radiofonici proprio all'interno della festa, quindi noi abbiamo degli inviati che sono andati in giro per la festa a fare delle domande che avevamo stabilito assieme. E a questo punto io direi che possiamo prima ascoltarci un brano musicale e poi iniziare ad ascoltarli. Flame, the shame, the ones who died without a name. con Holiday. Adesso andiamo ad ascoltare i nostri inviati alla festa di primavera dell'Istituto Comprensivo 5 e vediamo che cosa ci raccontano. Che cosa ti piace di questo istituto? La cosa principale è che è vicino a casa, sia le medie che le elementari che la materna. Cosa cambieresti o lasceresti nel tuo istituto? Allora, cambierei, ma non è solo per questo istituto, è un po' per tutti gli istituti, da rimodernare un po', però è un problema di fondi che non arrivano. Da lasciare così è bello, noi abbiamo avuto materna, elementari e anche medie, ci siamo trovati bene dappertutto. I maestri sono molto bravi. Cosa ne pensi dell'approccio che l'IC5 ha sul territorio, sul nostro quartiere? Beh, allora, intanto questa festa dimostra di quanto la scuola sia inserita nel quartiere, perché abbiamo un sacco di associazioni che sono venute oggi proprio per sostenere l'IC5, quindi c'è una grande collaborazione con tutto il quartiere. Noi come scuola media Testoni Fioravanti portiamo i nostri alunni in tutte le associazioni, anche i musei del quartiere, e collaboriamo tantissimo con loro per dare anche ai ragazzi opportunità di conoscere mestieri, luoghi dove stare, ok? Quindi siamo molto nel quartiere, il quartiere è con noi. Grazie mille. Ok, vai. Ti piace la tua scuola e perché? Allora, la mia scuola mi piace molto. Ha numerose opportunità anche per i bambini che vengono da altri paesi, bambini con difficoltà linguistiche, molte associazioni di aiuto, molti corsi pomeridiani e intrattenimenti che aiutano i bambini anche ad approcciarsi meglio in questo nuovo periodo per loro. Cosa ne pensi dell'approccio che l'IC5 ha sul territorio e sul nostro quartiere? Mi piace questo l'IC5 di quartiere, perché principalmente le scuole si trovano nella Bolognina ed è comodo per chi abita lì andare subito a scuola senza dover prendere un autobus o svegliarsi troppo presto, e anche ha numerosi spazi all'aperto con del verde e della natura, quindi sono soddisfatto anche. Cosa vivi della Bolognina e cosa ti piace? Della Bolognina mi piace appunto avere una scuola così vicina. Anche la Bolognina è ricca di opportunità, luoghi dove poter incontrare amici o studiare. Anche qua nel nostro parco, dove oggi abbiamo la festa, credo sia la prima volta che ci incontriamo tutti insieme dell'IC5. Sì, mi sembra una buona cosa anche convivere con il nostro istituto in luoghi sempre della Bolognina. Soprattutto convivere nel verde è molto bello. Sì. Grazie mille. Grazie a voi, ciao. Ciao. We'll be right back. Radio Gaga, i Queen, e torniamo ad ascoltare i nostri inviati alla festa di primavera dell'Istituto Comprensivo 5 della Bolognina. Cosa vivi della Bolognina? Allora, io vado a danza, poi vado al parco, vado in biblioteca, vado al Comini oppure a Villa Angeletti, la Casa di Caula, certe volte se riesco anche la Sala Borsa. Quindi ti piace la tua zona, il tuo quartiere? Sì, dai, nel complesso è una bella zona. Ok, grazie. Vi piace questa scuola? Perché? Perché è organizzata e ci sono dei buoni professori. Sì, a me piace. Ho fatto dei compiti. Cosa ne pensi delle C5 e del quartiere? Mi piace perché è sempre molto in movimento, no, non è addormentato e è sempre sulla cresta dell'onda. Valeria Pagani, cosa ne pensi del nostro istituto? È un istituto bellissimo, speciale, ci lavoro da anni, lo sostengo da sempre e invito tutti a conoscerlo se non lo conoscete. E cosa pensi dell'approccio che ha l'IC5 sul territorio e soprattutto sul nostro quartiere? Mi sembra un ottimo rapporto, molto di interscambio, di integrazione multiculturale. E cambieresti qualcosa e cosa terresti dell'istituto IC5? Che domanda difficile. Cambierei chi non vuole stare qua per svariati motivi e invece terrei tutti quelli che ci credono. Quindi pensi che i modi, gli approcci educativi dell'IC5 siano ottimi, diciamo, buoni? Sì, più che buoni, sì, direi ottimi. Ok, grazie mille. Grazie mille. Arrivederla. Ti piace questa scuola e perché? Per l'Istituto Comprensivo 5? Sì, sì. Sì, mi piace. E vuoi sapere anche perché? Sì. Perché è una scuola dove ci sono tantissime persone simpatiche, sia i professori sia gli alunni, tutti diversi, tutti provenienti da realtà diverse, culture diverse, quindi mi piace perché è ricca, ricca, ricca. Multiculturale? Anche, certo. Cosa ne pensi dell'approccio che l'IC5 ha sul territorio, sul nostro quartiere? Penso che noi, vedi, oggi siamo qua nel parco del nostro quartiere Navile, che è il Comini, proprio perché vogliamo essere presenti anche nel territorio, quindi non solo dentro le mura delle nostre scuole, ma anche fuori nel territorio. Ci piacerebbe che tutti i nostri alunni andassero anche nelle piazze a fare delle cose, a far vedere quello che fanno a scuola, andassero a visitare anche Bologna, conoscessero anche posti che stanno fuori dal quartiere. Grazie mille. Ti piace la tua scuola e perché? Allora, sì, la mia scuola mi piace molto perché nonostante io abbia avuto conflitti, comunque con i compagni sono riuscita a chiarirci molto facilmente, quindi il livello di maturità nelle classi è abbastanza alto, anche per l'amicizia tra professori e alunni. Ti piace la tua scuola perché? Mi piace perché gli insegnanti sono validi e anche simpatici e perché ho dei compagni di classe molto, okay. Molto. Molto, molto. Mi piacciono i miei compagni, sono fiera della mia classe. Ti piace la tua scuola? Perché? Sì, è molto bella. Ho gli amici tutti quanti che mi vogliono bene. Cosa vorresti che rimanesse com'è? Che vorrei anche comunque tenere tutto quanto, tutto quanto. Cosa vivi della Bolognina? Cosa ti piace? Allora, a me piaceva tantissimo tutto quanto, a me, cioè, è davvero bello tutto quanto. Ciao. Wilson, uno dei gruppi preferiti della mascotte, nonostante siano del 1996. Mascotte le piacciono gli Wilson? Ok, grazie per il suo contributo di oggi. E comunque era una delle nostre inviate, quindi la mascotte è sempre con noi, ma gli Wilson hanno scritto questo pezzo, Mbop, nel 1996, e ancora oggi abbiamo i fanciulli di 12 anni che lo saltano, lo ballano e lo canticchiano, quindi fate un po' voi. Poi dopo, non so, gli Wilson non so dove siano finiti, però questo pezzo l'hanno fatto. Torniamo adesso al nostro istituto comprensivo 5 e andiamo ad ascoltare la voce dei genitori, del comitato genitori alla festa di primavera. In questi ultimi tempi abbiamo letto anche sulla stampa, insomma, si stanno smuovendo un po' di cose, stanno succedendo altrettante cose nel nostro istituto comprensivo, e ci fa piacere ascoltare la voce dei genitori perché effettivamente c'è da raccontare qualcosa. Che cosa sta succedendo? Stiamo parlando di migrazione scolastica nello specifico, sia nelle scuole primarie sia nelle scuole secondarie, devo dire di tutto il quartiere Navile, però all'IC5 sta succedendo che i genitori, i professori e la scuola tutta, compreso dirigenza, si stanno muovendo insieme, compatti, per ottenere delle risposte. Che cosa ci volete raccontare? Io sono Roberto Braga, sono un genitore di due ragazzi che hanno frequentato e che frequentano l'IC5, e sono anche membro del consiglio d'istituto dell'IC5. La situazione che si è creata è quella di una scelta, sebbene legittima da parte di un gruppo di famiglie, di iscrivere i propri figli in altri contesti scolastici ritenuti più semplici. La narrazione che va avanti da alcuni anni sulle scuole Tessoni Fioravanti, soprattutto quindi sulle scuole medie, è che siano scuole complesse, abitate, vissute da una componente scolastica multietnica e quindi percepita come problematica. È una narrazione che ci stiamo impegnando per cercare di scardinare, di decostruire, perché effettivamente questo non è quello che sta succedendo nelle nostre scuole. I ragazzi che frequentano le medie dell'IC5 escono preparati, escono formati e si relazionano con quello che è la realtà quotidiana del quartiere, e quindi vivono una scuola normale come tutte le scuole. Ok, io confermo quello che ha detto Roberto, grazie per il tuo intervento in radio, perché effettivamente io, oltre a essere genitore di una ragazzina che va alle Tessoni Fioravanti, sono anche, diciamo così, collaboratrice esterna della scuola, faccio laboratori di radio, di musica e di teatro. E posso confermare che il team dei docenti delle Tessoni Fioravanti è un team preparatissimo, proprio perché il nostro territorio ci regala questo discorso del colore e del multietnico, e loro sono preparatissimi su questa tematica, perché quando arrivano dei ragazzi dai loro paesi di provenienza che devono inserirsi in un contesto di questo tipo, o i famosi migranti di seconda generazione che stanno qua da anni e sono nati qua e sono inseriti già in questo contesto, ma hanno la loro cultura e le loro modalità quotidiane di espressione, sanno come intervenire i nostri docenti, perché sono anni che sono qui e sono anni che vivono il territorio assieme a noi, pur alcuni non abitandoci. Quindi devo dire che quello che ha detto Roberto sul fatto che i ragazzi che escono dalle Tessoni sono preparatissimi lo posso confermare al 100%. Dici qualche cosa anche tu, Giulia. Ciao. Ciao, io sono Giulia Rodeschini, mamma di due bambini che fanno ancora la primaria. Il primo andrà l'anno prossimo alle Tessoni Fioravanti. Quello che vorrei enfatizzare è un po', secondo me, un problema di narrazione, cioè quello che sta succedendo. Siamo, come dire, un po' vittime, secondo me, come genitori, di narrazioni che partono forse da narrazioni sul quartiere bolognina, che arrivano poi a declinarsi rispetto alle narrazioni sulle scuole, che sono, secondo me, discorsi non sempre veritieri, ma che vengono condizionati da percezioni rispetto soprattutto al tipo di utenza e di cittadine e cittadine presenti in quartiere. Vediamo che la nostra esperienza nelle scuole è molto positiva, sono scuole, come dicevi poco fa, con una ricchezza da parte del gruppo docenti che ha davvero un livello molto alto, un gruppo di docenti abituato ad avere a che fare con molte differenze, e questo fa sì che la la preparazione della scuola riesce a rispondere veramente ai tanti bisogni e situazioni anche complesse che si verificano. Questo purtroppo viene visto a volte dall'esterno con una certa paura, perché si teme, e forse ancora di più nella fase della preadolescenza rispetto alla primaria, si teme che i propri figli possano frequentare persone considerate più problematiche di altre. Questo purtroppo vediamo che non corrisponde alla realtà, e quindi ci troviamo di fronte a uno spopolamento, a un iniziale, diciamo, spopolamento, a un rischio di spopolamento di una scuola che è anche presidio educativo di comunità del nostro quartiere, che rischia di trovarsi con meno risorse, perché se quest'anno dovesse saltare una delle classi prime, alcuni docenti, alcune ore di docenza andranno spostate in altri istituti, e questo significa indebolire una situazione già complessa che riesce a dare delle risposte molto efficaci, ma che rischia appunto di essere indebolita da questa paura e da queste narrazioni, a mio parere, non corrispondenti alla realtà. Ciao, io sono Linda Martini, anch'io sono membro del consiglio di istituto dell'IC5, e niente, non aggiungo molto a quello che hanno già detto Giulia e Roberto su questi problemi che abbiamo affrontato. Io confido veramente, sono direi convinta, del fatto che sia una cosa transitoria, non un percorso discendente, perché secondo me le nostre scuole hanno una forza e una, da tutti i punti di vista, straordinaria. Noi siamo qua in questo momento alla festa dell'IC5, abbiamo visto una mobilitazione dal basso incredibile, una cosa auto-organizzata con centinaia di persone, di famiglie, cioè non solo italiane ma di ogni nazionalità. Questo è quello che vediamo tutti i giorni a scuola, e i nostri figli vanno a scuola insieme, vivono in Bolognina e vanno a scuola in Bolognina. Nel senso, ci fa capire quanto i nostri timori di genitori sono legittimi, possono essere, però è una cosa che dobbiamo risolverci noi, secondo me, e confido che riusciremo a farlo, perché per i nostri figli è qualcosa, cioè per loro sono già oltre questo, è veramente, mi guardo intorno e lo vedo e lo vediamo, in modo che insomma questa esperienza fantastica ci possa restituire un quadro davvero molto più realistico di quello che esce fuori. No, aggiungo che questo è un fenomeno che stiamo vivendo qua, noi oggi, in Bolognina, ma è un fenomeno che si riscontra in tanti altri contesti. Alcuni lo definiscono white flight, nel senso che ci sono questi spostamenti di famiglie che scelgono di mandare appunto i figli e le figlie in scuole con un'utenza che possiamo proprio dire più bianca. Cioè c'è la paura dello straniero, delle famiglie straniere, si pensa che questo possa condizionare la socialità dei propri figli, l'apprendimento dei propri figli, a volte si pensa che il proprio figlio o la propria figlia sia di un livello così alto che rischia di rimanere in qualche modo indietro, in questa idea che la scuola serva, adesso semplifico chiaramente un discorso più complesso, che la scuola serva per apprendere i programmi e che si limiti a una velocità anche di apprendimento sui programmi, che tra l'altro, anche restando in questa lettura secondo me un po' limitata della scuola, vediamo che le scuole Tessone e Fioravanti vengono considerate in realtà da docenti delle superiori, che poi accolgono studenti delle Tessone e Fioravanti, come scuole in realtà che danno una preparazione molto alta. Ok, anche perché a me risulta che ci siano delle problematiche da parte di alcune famiglie, per esempio la questione mensa, le nostre scuole non hanno la questione mensa, la dirigente si è subito spesa insieme al consiglio d'istituto per pensare e cercare di capire come risolverla questa problematica. Oppure altre problematiche di organizzazione, il pomeriggio i ragazzi sono scoperti e quindi non hanno la copertura fino alle 4:30 come succede alla primaria, la dirigenza e il consiglio d'istituto si stanno già muovendo anche per questa direzione, quindi qualsiasi domanda venga fatta dai genitori in fase di scelta della loro scuola media viene ascoltata e si trovano delle soluzioni, quindi io credo che l'Istituto Comprensivo 5 a 360 gradi dia sempre una risposta e una copertura che va a risolvere le problematiche, quindi insomma credo che l'utenza possa ascoltare queste risposte, ecco. Sì, confermo che c'è questo dialogo, questa apertura costante tra il corpo docenti, la dirigenza e la comunità scolastica. Dove si riesce, si interviene, si offrono soluzioni adatte alla comunità scolastica e per questo una delle scelte che viene spesso fatta è quella di offrire laboratori pomeridiani a costi limitatissimi e se non gratuiti, proprio per venire incontro a tutte le realtà che popolano a Bolognina. Diciamo che questa alleanza tra scuola, gruppo docenti e comunità scolastica deve, a mio avviso, essere supportata anche dalle istituzioni, quindi anche dal comune e dal provveditore. Quindi offrire servizi e offrire personale docente dove ci sono maggiori fragilità. Per questo motivo abbiamo anche aperto dei canali di dialogo con le istituzioni più o meno fruttuosi. Per questo motivo tutta la comunità scolastica si è mobilitata per chiedere che il personale docente delle Testoni Fioravanti venga confermato il prossimo anno, nonostante la perdita di una classe, perché perdere docenti significa perdere figure educanti e quindi impedire a quei ragazzi che già frequentano le scuole medie di avere i loro docenti di continuità. Quello che chiediamo è all'ufficio scolastico, alla politica, sappiamo che da parte comunque della giunta c'è attenzione anche al quartiere, alle situazioni di cui abbiamo parlato. Chiediamo veramente di riflettere su questa situazione e riuscire a garantire quelle risorse che alla scuola servono. Non è neutro spostare dei docenti da una scuola all'altra, le scuole di stradario rimangono scuole fondamentali, il fatto che non vengano abbandonate dalla popolazione che le vive, e quindi chiediamo veramente a gran voce all'ufficio scolastico in particolare di riuscire a garantire continuità in questa scuola, dare fiducia, dare risorse e far sì che il fenomeno che si è verificato quest'anno venga bloccato e che, come diceva anche prima Linda, non sia un fenomeno che andrà sempre a peggiorare, ma che rimanga isolato un po' alla situazione di oggi. Sì, e questo appunto dipende in parte da noi, dal lavoro che riusciamo a fare noi, cioè come genitori, di concerto con la scuola, ma soprattutto anche dalle istituzioni che non assecondino, diciamo, una tendenza, in qualche modo certificandola, ma ci aiutino, insomma, appunto a invertirla, a bloccarla, perché hanno il potere di farlo, appunto, semplicemente confermando delle risorse di cui la scuola ha bisogno. Grazie ragazzi, ciao. Ciao. Ciao. E noi anche oggi vi salutiamo, ci risentiamo la settimana prossima, sempre mercoledì alle 13 su Radio Città Fujiko. Salutiamo tutto l'Istituto Comprensivo 5 della Bolognina, dalla dirigente al consiglio d'istituto, i docenti, tutti i docenti, i collaboratori scolastici, gli alunni di queste scuole e i genitori e le famiglie e tutta la comunità scolastica che vive quotidianamente questo istituto comprensivo. Ciao, alla prossima settimana. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Hai dimenticato a Playboy.